Ho sempre pensato, Agostino, disse Miss Ofelia, che i vostri pari approvassero queste cose e le credessero giuste, secondo la Sacra Scrittura. Errore, mia cara, errore. Grazie al cielo non siamo ancora ridotti a questo punto. Neppure Alfredo, il quale è il più risoluto despota che sia mai comparso nel mondo, assume questo genere di difesa, no? Egli si giova altamente e fieramente di questo buon vecchio argomento: il diritto è del più forte. Egli dice, e secondo me non ha torto, che i piantatori americani trattano i loro schiavi in quel modo stesso in cui l'aristocrazia e i capitalisti inglesi trattano le classi inferiori, vale a dire, li fanno servire corpo e anima al loro pro. Egli dice non esservi squisita civiltà senza la schiavitù delle plebi, nominale o affettiva che sia. E duopo, dice, e che vi sia una classe inferiore data al lavoro materiale e una classe superiore, oziosa e ricca, che si sviluppi intellettualmente, allarghi i limiti del progresso e diventi l'anima della quale la classe inferiore sarà il corpo. Questo è il suo modo di ragionare, poiché, come ho già avuto occasione di dirvi, Alfredo nacque aristocratico, mentre io invece non credo una parola di tutto ciò, appunto perché nacqui democratico. Miss Ofelia obiettò. Come si possono mai paragonare tra loro due cose tanto diverse? Il proletario inglese non è venduto, frustrato, tolto violentemente alla propria famiglia. Ma, replicò St. Clair, con tutto ciò, il proletario inglese dipende da colui che gli dà lavoro, come se egli ne fosse la proprietà. Il piantatore può far morire lo schiavo refrattario sotto la frusta, il capitalista può far morire il proletario di fame. In quanto riguarda la famiglia, è difficile dire che cosa sia peggio. Tra l'avere i propri figli venduti o vederli morire di fame al proprio fianco. Ma non si giustifica la schiavitù col dimostrare che vi sono altre cose ugualmente cattive. Oh, non è mia intenzione di difendere la schiavitù. Dico soltanto che noi osiamo rompere in modo più evidente i diritti dell'uomo. Qui si compra un uomo come si compra un cavallo, gli si esaminano i denti, se ne palpano le membra, si fa camminare e poi si paga. Abbiamo speculatori, allevatori, trafficanti di corpi e di anime. Il male dunque si presenta agli occhi del mondo incivilito sotto una forma più palpabile, più ributtante, sebbene la cosa in sostanza porti allo stesso risultato, quello di appropriarsi una parte del genere umano e farla servire senza riguardo alcuno a vantaggio dell'altra parte. Io non avevo mai considerato la cosa da questo lato, disse Miss Ofelia. Io, continuò St. Clair, ho viaggiato un po' in Inghilterra e ho esaminato un buon numero di documenti intorno alle condizioni delle classi inferiori di quel paese. Ebbene, sono d'avviso che Alfredo ha ragione quando afferma che i suoi schiavi stanno assai meglio di una gran parte della popolazione d'Inghilterra. Dunque, cugina, non vorrete figurarvi che Alfredo sia quel che si chiama un padrone duro, poiché egli non lo è. Egli è despota e senza pietà verso l'insubordinazione. Ammazzerebbe uno sciagurato che osasse resistergli con quello stesso rimorso con cui ucciderebbe un daino. Ma in generale, egli ha piacere che i suoi schiavi siano ben nutriti e ben ricoverati. Allorché Alfredo e io facevamo vita insieme, io insistetti perché fosse data ai nostri schiavi qualche istruzione ed egli per contentarmi chiamò un cappellano e fece loro insegnare la dottrina cristiana tutte le domeniche. Quantunque in cuor suo pensasse, credo, che quegli avrebbe potuto catechizzare con lo stesso profitto i suoi cani e i suoi cavalli. Infatti, in poche ore alla settimana di cultura intellettuale non può farsi gran cosa d'una creatura resa stupida al pari di una bestia che passa le intere giornate a lavorare né più né meno di una macchina. I direttori delle scuole domenicali, fra i proletari dell'Inghilterra e fra i neri delle nostre piantagioni, hanno ottenuto qua e là il medesimo risultato. Nondimeno, si osservano fra noi delle eccezioni notevoli, poiché i neri sono per loro natura più disposti dei bianchi ai sentimenti religiosi. Perché, chiese Miss Ofelia, vi ritiraste dalla piantagione? Oh, in capo a qualche tempo, rispose St. Clair, Alfredo si accorse che io non ero nato assolutamente per una vita di quel genere. A mio fratello pareva una vera assurdità che dopo tutte le innovazioni e riforme introdotte per compiacermi, io ancora non fossi contento, ma il fatto è che io odiavo la schiavitù per sé medesima. L'assoggettamento, il possesso di questi uomini e donne, la perpetuazione di questa ignoranza, di questa brutalità, di questi vizi, al solo scopo di trarne un lucro per mio conto. Inoltre io mi ingerivo di continuo nelle più minute particolarità e siccome sono la più pigra creatura del mondo ed ebbi sempre la più gran propensione verso tutti i pigri miei pari, quando quei poveracci mettevano dei sassi nelle loro ceste di cotone per farle pesare di più, oppure riempivano i loro sacchi di terra in fondo e di cotone in cima, mi pareva che io pure sarei stato capace di fare lo stesso. Sì che non avevo mai il coraggio di farli frustare per così poco. Ma una tale indulgenza guastava la disciplina nella piantagione e ben presto ebbi a sostenere con Alfredo quella medesima lotta che alcuni anni prima avevo sostenuto con mio padre. Alfredo mi disse che io avevo un cuore da femminetta e che mai avrei attitudine per gli affari e mi consigliò di prendere le rendite che avevamo ereditate da nostro padre e la casa che possedevamo a New Orleans e di andare quivi a far poesie, lasciando a lui solo il governo della piantagione. Noi ci separammo dunque, e io venni qua. E perché non avete reso liberi i vostri schiavi? Non ebbi il coraggio. Adoperarli come strumenti per guadagnarmi del denaro non potevo, ma seguitare a tenerli meco per aiutarmi a spenderlo, ciò mi sembrava meno indegno e meno biasimevole. Alcuni di loro erano vecchi servitori ai quali portavo affetto, gli altri erano i loro figli e figlie e tutti si lodavano del loro stato presente. Sinclair tacque, poi, fatti alcuni giri per la stanza con aria pensosa, riprese a dire: vi fu un tempo della mia vita in cui ebbi la speranza di fare qualcosa di meglio in questo mondo che lasciarmi trarre a seconda della corrente. Sentivo in me una certa brama vaga e confusa di essere una specie di emancipatore e di liberare la mia patria da questa macchia disonorante. Tutti i giovani, credo, sono presi una volta o l'altra da questa febbre generosa, ma. E perché non lo faceste? Domandò Miss Ophelia. Voi dovevate metter mano all'aratro e non guardarvi indietro. Oh. Tutto andava a rovescio di quello che io m'ero prefisso e caddi in quel disinganno della vita del quale parla Salomone. Suppongo che questo scoraggiamento fosse in me, come in lui, l'effetto naturale della saggezza. Comunque fosse, invece di farmi il rigeneratore della società, divenni come un pezzo di legno galleggiante sull'acqua, sbattuto e trascinato. Alfredo mi sgrida ogni volta che ci incontriamo, io non saprei che rispondergli, lo confesso, poiché egli è migliore di me. Egli fa almeno qualche cosa, la vita che mena è il risultato logico delle sue opinioni, mentre la mia non è altro che una vita negativa e incoerente. Mio caro cugino, potete essere soddisfatto di un'esistenza così inoperosa? Soddisfatto? Non v'ho detto anch'io che la detesto. Ma per ritornare alla questione, noi stavamo discorrendo della liberazione degli schiavi. Io sono certo che questa maniera di considerare la schiavitù non è soltanto mia. Conosco moltissimi uomini che nel loro cuore pensano al pari di me. Il paese geme e si agita sotto il peso di questa iniquità spaventosa e se lo schiavo ne piange, il padrone in verità non ne ride. Non c'è bisogno di troppa perspicacia per vedere che i vizi, l'infingardaggine, il degradamento di un'intera classe della nostra popolazione sono ugualmente funesti a quella e a noi. Il capitalista e l'aristocratico inglese non possono sentir ciò al pari di noi, perché essi non vivono a contatto con la classe da loro degradata. Gli schiavi nostri vivono nelle nostre case, sono i compagni dei nostri figli, ne formano gli animi più presto che a noi non sia dato di farlo, perché i fanciulli si trattengono assai più volentieri con gli schiavi che con noi. Se Evangelina non avesse nella sua natura qualche cosa di angelico, sarebbe già perduta quest'ora. Lasciare i neri nell'ignoranza e nel vizio e pretendere che i nostri figli ne andassero esenti sarebbe lo stesso che mettere i nostri figli a contatto col vaiolo e persuaderci che quella malattia non è contagiosa. Eppure, le nostre leggi proibiscono assolutamente che venga organizzato per gli schiavi un sistema di educazione generale ed è bene perché una sola generazione di costoro cresciuta a civiltà basterebbe per far crollare il faticoso edificio del loro servaggio. E si emanciperebbero da sé se noi tardassimo a farli liberi. E come credete che andrà a finire tutto ciò? Chiese Miss Ophelia. Non so dirvelo davvero, ma una cosa perlomeno mi sembra certa, cioè che su tutta quanta la terra le masse si agitano e si commuovono, e che presto o tardi Un dies irae verrà. La stessa agitazione si manifesta in Europa come in America. Mia madre soleva dirmi che ci avviciniamo a un'epoca in cui deve giungere il regno di Cristo, in cui tutti gli uomini saranno liberi e felici e le donne. Ella mi insegnò, quando io ero piccino, a dire nella mia preghiera: venga il regno tuo. E questo regno si avvicina senza dubbio, ma chi può dirne l'ora della venuta? Agostino, io penso talvolta che voi non siete discosto gran fatto dal regno di Dio, disse Miss Ofelia, posando il suo lavoro e guardando con ansietà affettuosa suo cugino. Vi ringrazio della vostra buona opinione, ma io sono capace di voli e di cadute. Di voli fino alle porte del paradiso, quando si tratta di teorie, di cadute fino alla polvere della terra, quando si viene alla pratica. Ma suona il campanello per il tè. Andiamo, ora non mi direte più che io non ho saputo mai, neppure una volta, ragionare sul serio. A tavola, Maria fece allusione alla storia della vecchia Prù. Suppongo, cugina, disse, che ci crederete tutti barbari. Credo che sia stato un atto barbaro, rispose Miss Ophelia, ma non per questo vi considero tutti barbari. Ebbene, riprese a dire Maria, mi accerto sempre più che alcune di queste creature sono del tutto insopportabili. La loro perversità non cessa se non con la loro esistenza. Per me io non provo verso di esse ombra di simpatia. Se costoro si conducessero bene, tali cose non succederebbero. Ma, disse Evangelina, quella povera vecchia era troppo infelice. Per questo appunto ella beveva troppa acquavite. Via, è forse una scusa, cotesta, anch'io sono spesso infelice, soggiunse con aria pensosa Maria. Ho traversato, credo, prove assai più dolorose che alcuna delle sue. La troppa malvagità di questi neri è la sola causa dei loro mali. Mi ricordo che mio padre possedeva una volta uno schiavo così neghittoso e poltrone che fuggiva unicamente per non essere costretto al lavoro. Egli si teneva celato nelle paludi vicine, rubando e facendo ogni sorta di cose orribili. Costui fu ripreso e frustato 100 e 100 volte, ma senza alcun pro. L'ultima volta si trascinò di nuovo, quasi morente, nella palude dove fu ritrovato morto. Ed egli non aveva nessuna giusta ragione di fare a quel modo, perché gli schiavi di mio padre erano trattati sempre benissimo. E io, disse St. Clair, ne domai una volta uno contro cui erano riusciti vani tutti gli sforzi di sovrintendenti e padroni. Voi, esclamò Maria, davvero? Vorrei sapere quando faceste una cosa simile. Oh, era un nero pieno di forze e di una statura gigantesca, nato nell'Africa, il quale possedeva al massimo grado l'istinto selvaggio della libertà, un vero leone dell'Africa. Si chiamava Scipione. A nessuno, come ho già accennato, era mai riuscito di piegarlo ed egli era passato da un padrone all'altro fino al giorno in cui Alfredo lo comprò, pensando che sarebbe stato più fortunato degli altri. Ma una volta costui atterrò con un mal rovescio il sovrintendente e se ne fuggì alle paludi. Io stavo allora visitando la piantagione di mio fratello, alcuni mesi dopo la nostra separazione. Alfredo era furente. Ma io gli dissi che se lo schiavo era fuggito, se ne incolpasse il padrone, e presi volentieri l'impegno di domare quell'uomo. Convenimmo dunque tra noi che se mi fosse riuscito di prendere lo schiavo, Alfredo me lo avrebbe lasciato perché io ne facessi l'esperimento, ed eccoci, in 6 o 7 uomini con cani e fucili, riuniti per correre a questa caccia. Sapete bene che vi sono uomini quali possono cacciare un loro simile con non minore entusiasmo che un daino. Tutto dipende dall'abitudine. Fatto sta che io medesimo mi sentivo un poco eccitato quantunque non mi fossi offerto che come mediatore, qualora lo schiavo fosse raggiunto e ripreso. I cani abbaiavano, urlavano, noi battevamo la campagna e finalmente scovammo il nero ribelle. Egli correva e saltava come un camoscio e un istante si allontanò per un gran tratto da noi. Da ultimo si accovacciò in un impenetrabile canneto. Ridotto allora agli estremi si rivoltò e io posso accertarvi che impegnò gagliardamente la battaglia con i nostri cani che egli atterrava a destra e a sinistra e ne aveva già uccisi 3 coi soli pugni quando una schioppettata lo abbatté quasi ai miei piedi. Il poveretto ferito alzò verso di me 2 occhi pieni di coraggio e di disperazione a un tempo. Io allontanai i cani e gli uomini che gli si gettavano addosso e lo rivendicai come mio prigioniero. Durai La più gran fatica del mondo è impedire che nell'ebbrezza della loro vittoria non lo accoppassero. Insistetti sulla nostra convenzione e ottenni che Alfredo me lo vendesse. 15 giorni dopo egli era mite e arrendevole quanto si poteva desiderare. Qual modo usaste? Chiese Maria. Oh, un modo semplicissimo. Lo feci trasportare nella mia camera da letto. Diedi ordine di preparargli un buon letto. Medicai le sue ferite e lo curai io stesso fino alla sua guarigione. Io avevo intanto preparato per lui un atto di emancipazione e gli dissi che poteva andare dove gli piacesse. E se ne andò? Chiese Miss Ofelia. No, quel pazzo stracciò l'atto di emancipazione e non volle a nessun costo abbandonarmi. Io non ebbi mai un servo migliore né più fedele e zelante. Di poi egli si fece cristiano e divenne docile come un fanciullo. Gli diedi l'incarico di sorvegliare la mia abitazione in riva al lago e fui ben contento del suo servizio. Lo perdetti nella prima invasione del colera. Egli sacrificò la propria vita per salvare la mia. Quando io ero malato e in punto di morte, mentre tutti i miei servi erano fuggiti per la paura, Scipione mi prestava la più assidua assistenza e a lui sono debitore della vita. Ma dopo, il poveraccio rimase colpito dal morbo né vi fu modo di salvarlo. Mai perdetti alcuno con più vivo rincrescimento. Evangelina si era poco a poco avvicinata a suo padre mentre gli faceva questo racconto e stava a bocca semiaperta, con gli occhi spalancati e pieni del più vivo interessamento. Quando egli ebbe finito, la fanciullina gli gettò le braccia intorno al collo e proruppe in lacrime e singhiozzi convulsi. «Eva, cara fanciulla, che hai?» disse St. Clair spaventato nel sentire che quel corpicino tremava tutto per la violenta commozione. Ah, questa bambina, soggiunse egli, non dovrebbe mai udire simili racconti. Ella patisce troppo di nervi. Oh no, babbo, non patisco di nervi, disse Evangelina, frenandosi subito con una forza di volontà maravigliosa in così tenera età. Non patisco di nervi, ma queste cose mi fanno male al cuore. Che intendi dire, Eva? Non so esprimermi, caro babbo. Io ho molti pensieri nel capo, forse un giorno te li potrò dire. Ebbene, quando vuoi, mia cara, purché tu non pianga, disse St. Clair. Guarda la bella pesca che ti ho portata. Evangelina la prese sorridendo, benché gli angoli della sua bocca fossero tuttora mossi da un tremito convulso. Qua, qua, vieni con me a vedere i pesciolini d'oro, disse St. Clair, prendendola per la manina e uscendo sopra la veranda. Alcuni momenti dopo, allegre risa si udivano attraverso le tende di seta. Evangelina e suo padre si lanciavano rose l'una contro l'altro e si inseguivano nei viali del giardino. V'è da temere che la storia del nostro amico Tom sia un po' negletta in mezzo alle avventure degli altri personaggi, ma se i nostri lettori vogliono seguirci al di sopra delle scuderie, potranno sapere qualche cosa di lui. Qui vi era una cameretta assai pulita, contenente un letto, una seggiola e un tavolino di quercia, su cui si vedevano la Bibbia di Tom e un libro di cantici, e colà noi lo troviamo, seduto con la sua lavagna dinanzi e tutto inteso a una gran fatica di mente. Le aspirazioni di Tom verso la sua propria famiglia erano divenute così ardenti che gli aveva chiesto a Evangelina un foglio di carta e, riguardando tutte le nozioni letterarie da lui acquistate sotto l'insegnamento del suo padroncino Giorgio, formò l'ardita risoluzione di scrivere una lettera e ora ne tracciava sopra la sua lavagna il primo abbozzo. Egli si trovava grandemente impacciato poiché aveva dimenticato la forma di alcune lettere e non sapeva precisamente come servirsi di quelle che si ricordava. Mentre Tom, con tutte le sue forze intellettuali, attendeva a quell'importante lavoro, ecco giungere come un uccello Evangelina che, montata sul dosso della sedia, si pose a guardare al di sopra della spalla di lui e disse: «Oh, zio Tom, che brutti scarabocchi state facendo! Mi provo a scrivere alla mia povera vecchia, Miss Eva, e ai miei figliuoli», disse Tom asciugandosi gli occhi col rovescio della mano, «però temo di non riuscirvi. Se potessi aiutarvi, zio Tom, ho imparato un poco a scrivere. L'anno scorso io conoscevo tutte le lettere, ma dubito assai di aver dimenticato qualche cosa». Evangelina pose la sua bionda testolina accanto a quella di Tom e ambedue, pieni di ignoranza e di buona volontà, tennero un grave consulto e finalmente, Dopo una lunga deliberazione sopra ogni parola, giunsero a formare una composizione che, con loro gran contento, somigliava a uno scritto. Sì, zio Tom, vi assicuro, io che comincia ad andar bene, disse Evangelina guardando con dolce compiacenza la lavagna. Oh, come saranno contenti vostra moglie e i vostri figli. Ma è un'infamia che vi abbiano separato da loro. Voglio domandare al babbo di lasciarvi alla fine e tornare a casa vostra. La mia padrona mi disse che avrebbe mandato il denaro per riscattarmi appena lo avesse raccolto, riprese Tom, e sono ben certo che lo farà. Il padroncino Giorgio promise che verrebbe a cercarmi e mi diede questo dollaro in pegno della sua parola. E Tom cavò fuori dal suo corpetto il prezioso dollaro. Oh, dunque verrà certamente, disse Evangelina, sono proprio contenta. Sono proprio contenta. Io vorrei mandar loro una lettera, capite bene? Per far conoscere ad essi dove sono e per dire alla buona Chloe che ricevo buoni trattamenti, poiché quella povera donna deve essere di certo molto addolorata. Tom, disse la voce di St. Clair che si affacciò all'uscio. Tom ed Evangelina si scossero per la sorpresa. Che stai facendo là? Soggiunse St. Clair appressandosi alla lavagna. Oh, è la lettera di Tom, io lo aiuto a scrivere, non va bene, babbo? Oh, non voglio scoraggiare né l'uno né l'altra, rispose St. Clair, ma credo, Tom, che farai meglio a lasciarmi scrivere per te. Scriverò la tua lettera appena tornato dalla passeggiata. È necessario che gli scriva, replicò la fanciulla, perché la sua padrona vuol mandare il denaro occorrente per riscattarlo, capisci, babbo? Egli dice che glielo hanno promesso. St. Clair pensò che probabilmente era una di quelle promesse che i padroni benevoli fanno ai loro schiavi per mitigare l'orrore della separazione, ma che non intendono di porre ad effetto. Ad ogni modo, egli si astenne dal fare osservazioni, contentandosi di ordinare a Tom che allestisse i cavalli. La lettera di Tom fu scritta nella debita forma dal padrone la sera stessa e mandata alla posta. Miss Ophelia perseverava indefessamente nel sistemare le faccende domestiche. Tutti i servi, da Dina agli altri neri, si accordavano nel dire che Miss Ophelia era propriamente curiosa, epiteto che gli schiavi del sud adoperano per indicare quei loro superiori che ad essi non piacciono. I primi poli domestici, vale a dire Adolfo, Giovanna e Rosa, erano d'accordo su questo punto, che ella non era una signora, che una vera signora non avrebbe lavorato come ella faceva, che non aveva punto aria nobile e che pareva impossibile che la fosse stretta parente dei St. Clair. Maria stessa dichiarava che le era di gran fastidio vedere la cugina Ofelia ogni ora in faccende, e in vero quell'infaticabile operosità poteva dar qualche fondamento di ragione alle lagnanze di lei. Miss Ofelia cuciva dalla mattina alla sera con l'alacrità di una persona che fosse eccitata dal pungolo di una necessità urgente. Quando tramontava il giorno e la ripiegava al suo lavoro, e subito poneva mano all'interminabile calza e tornava a darne i ferri più vivamente che mai. Era proprio una fatica il solo vederla.